situazione fenomenale. Capito? Sempre sempre tanto l'armadio, però lo cuci, ce lo vuoi in vetrina. Positivo, vediamo un po', Giampaolo? Ho sentito Giampaolo. Però arriva a me, c'è questo piatto di su. No, io me ne vado a Corso, sento una lingua, mi compro un villaggio. Soldi, inizi, prendi questo, prendi l'altro, non vai a spese, capito? Sì. Sì, sì, sì, non c'è problema. Ciao, Giappa. Buon pranzo e buon tutto, saluti a casa. Ci sentiamo stasera se coincide, vai, dopo il calcio, insomma. Nel pomeriggio già, tanto sono a casa, non c'è problema. Ciao. Via, ciao, ciao, Giappa. Ciao, non c'è problema. Gli amici si contano nel palmo di una mano, capito? Va bene, dai, buon pranzo, riempi bene la saccoccia e ci sentiamo più tardi se coincide, dai. Avanti, Claudio, ci amato di sì. No, ma stavo mangiando il pantalone, ce l'avevo nel cofano che ho mettiato il vestiario la settimana scorsa, giubbotti, magliette, scarpe, c'era il pantalone che, tanto quelli sono sporchi. E quindi mi metto quelli di nuovi domani. No, non mi occupo su a tutta, non è finito il combattimento. Da adesso a casa, un po' di sport, stasera, pranzo, un riposino, stamattina mi sono svegliato per fare sì, non c'è niente da fare. Però dove mi sveglio mi sono bisogno al lutto. Vabbè, e quello ci vuoi fare. E quindi dopo pranzo mi faccio un riposino. Poi sport e poi sono qua in radio se c'è qualcosa di interessante, vediamo. Comunque sono qua a casa, non c'è problema. È positivo, là. E anche io mi fa un po' qua, ma essendo giù da mamma, ci mangiamo qualcosa, poi alle 2 mi guardo da primo, quando finisce verso le 4:20, 4:15, mi muovo libero di farlo a mamma, me la guardo lì. E poi devo essere un pochettino in radio, come ho detto tu, se c'è qualcosa di interessante, se no posso anche ascoltare, hai capito, tutto lì, e va bene. Vediamo un po' se è rientrato cosa, Gianluca. Gianluca ci sei? Buonasera, non è Gianluca, e va bene, là. Va bene, va bene. Quindi tu domani sera ti fai una scappata di là dove sappiamo noi, là. Sì, ma lo devo portare via. Portare via tutto e fare quello che ti ho detto, se no passa troppo tempo, capito? Perché poi devi calcolare anche il viaggio, la cosa, e quindi sai, gli altri, non voglio pressarlo, però mi ha detto che già metteva tutto ad hoc. Dio, ma tu pensi fra una quindicina di giorni che sarà tutto a posto? Sì, beh, se come abbiamo previsto sì, non ci sono problemi, capito? Se come abbiamo previsto sì, non ci stanno problemi. Vabbè, meglio avere un po' di pazienza in più e sapere che tutto è in ordine, Massimiliano. Chi la Bressa, Rosana, Bogado, Lucia, Rodrigo. Oh, vabbè, Claudio, no, non c'è problema. Cavolo, andiamo su Capino, andiamo lì, c'è io voglio. Vabbè, oh, quasi pure magari lavoro di mezz'ora, che una volta che c'è tutte le situazioni là si fa in fretta, hai capito? Magari controlla, fa, chiude e rimanda. Infatti, noi speriamo così. Siamo saltati fuori qualche altra cosa, ma lui non ci ha fatto nessun problema. Adesso sta lui, visto che ha tutti. Grazie delle varie, cazzo c'è una radio che parla, allucinante, cazzo che avvirà i dusci. Ah, la radio di Favetta. Anticio, ore 13:00. Va giù la radio parlante. Ma anche aveva un grillo parlante, vado la radio parlante. Si è svegliata male, è male. Ora te la parco giù. maggiore su quello che siamo assunti. Io faccio una mamma e cazzo mi ci vuole la brachea. Buon pranzo, buona diarrea e buon caffeino per dopo. Ciao ciao.